Presidente, quattro vetture fanno parte della flotta, tra virgolette, ZE, zero emissioni. Quali sono le caratteristiche? E poi un'altra cosa, voi puntate molto sul fatto che queste auto sono normali, sono auto come le altre. Sì, assolutamente, perché ogni tanto si immagina un po' una vettura elettrica come un giocattello, una vettura piccolina che non va avanti, che è un po' strana, magari un po' fragile anche. E per questo che abbiamo puntato subito sullo sviluppo di una gamma completa, con, l'avete visto oggi, una berlina familiare, quindi già una vettura di una certa dimensione, già un certo peso, un utilizzo abbastanza complesso, un veicolo commerciale, il Kangoo, e su questo puntiamo molto perché lì c'è un fabbisogno enorme di ridurre le emissioni legate al trasporto merci in città. E poi abbiamo anche sviluppato, e siamo il primo costruttore a averlo fatto, abbiamo sviluppato due altri modelli solo per la tecnologia elettrica, che sono, come dicevo, la Zoe, che è un utilitario del segmento B, e un biposto che piacerà molto ai giovani, la Twizy, che sono due vetture sviluppate unicamente per ricevere un motore elettrico. Non ci saranno versioni termiche di queste vetture. Quindi una gamma completa che vuol parlare a diverse tipologie di clienti, e per questo che per noi è il segnale forte che noi abbiamo fatto una scelta strategica in questa direzione, puntando a coprire una grande diversità di clienti e una grande fascia del mercato. Al di là dei progetti pilota di Milano e Brescia, quando queste vetture saranno sul mercato, le quattro che fanno parte del progetto ZE? Allora, prevediamo di lanciare la commercializzazione in volumi dalla seconda parte del 2011, che può sembrare lontana, ma infatti per noi è domani mattina, perché naturalmente bisogna organizzare la produzione, pianificare i volumi, preparare i contenuti del prodotto, i prezzi, eccetera. Quindi veramente un progetto molto attuale da noi, e quindi infatti dalla fine 2011 per tutto l'anno 2012 sarà veramente il momento chiave per noi per lanciare queste macchine.